Il serpente corallo di Stefano Elli, Marco Lo Conte e Mauro Meazza. Ma quanto sei bello, serpente corallo, tutto colorato di rosso e di giallo. Ma quanto sei bello, serpente corallo, tutto colorato di rosso e di giallo. Buona giornata e benvenuti, benvenuti al Serpente Corallo. Benvenuti da Mauro Meazza. Da Marco Lo Conte. Da Stefano Elli. E allora, che cos'è il Serpente Corallo? Il Serpente Corallo è la trasmissione di Radio 24 che vi terrà compagnia in queste mattinate di fine settimana estivi, per raccontarvi dei pericoli dei vostri risparmi, delle possibili fregature che possono insidiare i vostri risparmi. Perché il serpente corallo, Marco? Spieghiamo perché questo curioso animale. Abbiamo deciso di utilizzare questo animale simbolicamente per esprimere... È un'icona. È un'icona. È quella ortodossa. No, allora andiamo con ordine. Il serpente corallo è quell'animale che ci suscita tenerezza, ci piace, però che cosa fa il serpente corallo? Alla fine, mentre brutta noi, bestia schifosa, mentre noi siamo lì che ci inteneriamo, zac, ci morde sulla mano, e questo non è bello. È lì la fregatura che si annida laddove noi crediamo di poterci fidare. Allora, noi in queste puntate, in queste mattinate, vi spiegheremo, vi racconteremo serpenti corallo che spesso si annidano, hanno ghermito i risparmi di molti investitori, ma anche vi diremo come si potrebbe evitarli, a che cosa stare attenti, approfittando anche della competenza di Marco Lo Conte, che sì, è un giornalista del Sole 24 Ore. Confermo. Ma anche autore del volume Il risparmiatore maleducato. Assolutamente sì. Puoi fare entrare adesso l'autore del risparmiatore maleducato? Aspetta che esco un secondo. Ecco, rientra come autore del risparmiatore maleducato. Salve, sono Marco Lo Conte, sono l'autore del risparmiatore maleducato. E poi Stefano Elli, che oltre a essere giornalista del Sole 24 Ore, ma soprattutto, poiché giornalista del Sole 24 Ore, è anche un cacciatore di serpenti corallo, perché tutti i sabati, ma anche di lunedì, di martedì, di mercoledì, va a caccia di grandi truffe, racconta truffe, specialmente lui le racconta su Plus, il settimanale che appunto trovate in edicola tutti i sabati con Sole 24 Ore. Scusami, Plus 24, ho tolto il numero. È bello, è Plus 24. Però tu racconti... Piccolo, si legge bene, facile. Ma tu mi confermi che racconti soprattutto questi casi di serpenti corallo, insomma, cioè di fregature, le di brutte truffatori. Bestie che ti presentano delle cose, ti dicono guarda che così guadagnerai tanti soldi e poi invece perdi tutto. Ti irretiscono. Non so che cosa significa questo. Non importa, fidati di me, ti irretiscono e dopo invece, come spiegava prima Marco, zac, ti mordono. E allora, come tutte le trasmissioni che si rispettano, anche la nostra trasmissione si è meritata una casella di posta elettronica. E la casella di posta elettronica alla quale potete scriverci è serpentecorallo@radio24.it. Naturalmente, se vi pungesse vaghezza... Che perizia! Se vi pungesse vaghezza potreste anche risentire questa puntata, se volete, su www.radio24.it. Posso fare un inserto? Fai un inserto, cosa devi dirci? Volevo dire a tutti, ma proprio a tutti gli ascoltatori, sì, che è sbagliato dire che le meduse pungono. Perché? Perché le meduse strisciano, non pungono. Strisciano, quindi sono un po' serpenti corallo anche le meduse. Esatto. Potrebbero essere un serpente corallo. E allora, entriamo senza por più tempo in mezzo, cari miei. Che oggi mi sono svegliato particolarmente forbito. Hai fatto colazione l'inferno di Dante? Sono forbitissimo. E allora, senza por tempo in mezzo, andiamo col primo corallo di questa serie. Il primo corallo racconta il caso del crack de Julemar. Dico bene, Stefano? Non poteva essere altro caso, visto che Torre del Greco, che è la città in cui si è verificato questo increscioso accidente, è la patria della lavorazione del corallo. Mi sento forbito. Sentiamo la scheda. Il 2012 è iniziato da poco più di un mese e gli abitanti di Torre del Greco ancora non hanno percepito che quello sarà per loro un anno nero. La De Julemar, compagnia di navigazione fondata nel 1969 dalle tre famiglie di armatori Della Gatta, Giuliano e Lembo, improvvisamente va in bancarotta. I suoi conti esplodono con un buco di quasi 1 miliardo di euro. Il problema, da societario, diventa sociale quando si scopre che oltre 12.000 cittadini della zona hanno investito i loro risparmi in obbligazioni emesse dalla società. Convinti a investire dal passaparola, dall'apparente stato di salute della compagnia e soprattutto da un istituto del diritto di navigazione. Il carato, una sorta di quota di partecipazione nelle imbarcazioni, che in origine era finalizzato a distribuire la proprietà delle navi a tutti coloro che avrebbero dovuto lavorarci. Uno dei tre armatori, Michele Giuliano, muore per una crisi cardiaca durante una perquisizione della Guardia di Finanza. Da allora la vicenda si trascina nelle aule dei tribunali civili e penali di Roma e Torre Annunziata. Lo stato passivo accertato ammonta a 923 milioni di euro. Del denaro e persino di alcune delle 14 navi del gruppo si perdono le tracce, disperse in una gimcana di scatole cinesi, società offshore e trust che lasciano pensare a menti sofisticate nel settore della finanza occulta. Avete ascoltato questo primo Serpente Corallo, un serpentone mi viene da dire, Stefano, perché piuttosto 12.000 risparmiatori truffati. E poi c'è un particolare su cui magari torniamo più attentamente, ma questa cosa che non si trovano più le navi, perché così recitava la scheda, delle navi si perdono le tracce, ma com'è possibile? Una nave non sarà stato mica per un canotto, certo, un gommone? Per un certo periodo delle navi si sono effettivamente perse le tracce, poi misteriosamente sono riapparse in Grecia. La nave fantasma. Le navi fantasma, sembra il triangolo delle Bermuda trasportato vicino a Posillipo. Tra l'altro proprio questa mattina su Plus 24 l'inserto di Risparmio del Sole 24 Ore tratteremo abbondantemente tutti i temi e tutte le cause che riguardano De Julemar. Ma il senso era che sparivano perché non si sapeva più bene dove fossero iscritte in bilancio, quindi la nave esisteva di suo, solo la nave che esisteva. Chissà di chi era. Era bella grossa anche la nave, solo che era sparita banalmente. Perché parliamo naturalmente di navi che erano delle navi da trasporto merci e che con questi carati le portagranaglie, tanker, roba pesante, roba. Quindi, anche difficile roba occultare. Di tonnellate e tonnellate, insomma. Sì, certo. Ma il carato invece che cos'è? Perché anche questa cosa è molto particolare. Una sorta di certificato di partecipazione, come diceva la scheda, era una forma con cui in buona sostanza la gente che avrebbe dovuto lavorare, i marinai che avrebbero dovuto imbarcarsi su queste navi, tentavano di assicurarsi un lavoro acquisendo appunto delle quote di partecipazione, quindi di proprietà di parti delle navi. Ecco, però Marco, qui c'è la particolarità che il carato a Torre del Greco non si andava a prenderlo in banca presso, che so, una SIM, un diciamo che istituzionale. È una forma un po', vogliamo dire, un po' arcaica di compartecipazione e di prenotazione del lavoro, sostanzialmente, come sottolineava Stefano, che dava una garanzia, ma che non era, ratificata, certificata da strutture terze, da autorità di vigilanza, da... Non c'erano le quotazioni sul Sole 24 posso, Ore? Se no, posso permettermi, no. Sì. Esiste una cosa analoga in Veneto, sì, che è quella dell'istituzione delle casse peote. Ah, non che funzionano peote con la P di Palermo. Va bene, allora, sul carato, sulle casse peote e sulla vicenda di Julemar torniamo tra pochi minuti, state con noi. Il serpente corallo. I clienti affidano le loro ordinazioni a noi e noi compriamo o vendiamo oro per conto dei nostri clienti. Digli la parte bella. La parte bella, Valentine, è che a prescindere dal fatto che i nostri clienti guadagnino denaro o perdano denaro, la Duke & Duke prende una percentuale. Cosa ne dice, Valentine? Secondo me siete una specie di allibratori. Te l'avevo detto che avrebbe capito. Sì, una specie di allibratori. Questa era una poltrona per due. Questo è sempre il Serpente Corallo con Mauro Meazza, Marco Loconte, Stefano Elli. Vi stiamo parlando di truffe, di cose da evitare, di fregature, di serpenti corallo, cioè quegli animaletti, magari anche graziosi, che però ghermiscono, insidiano i vostri risparmi, specialmente i risparmi, giusto? Perché Stefano, i serpenti corallo poi hanno una passione per i risparmi delle persone, sì, no? Annidano, nidificano nel risparmio. E allora il serpente corallo che cos'è, Marco? Dillo tu. Beh, il serpente, come dicevamo, è qualcosa che ti dà la fregatura. Poi ci torneremo sui vari modi di declinare, di definire anche nei dialetti italiani la fregatura, ma io qui ci tengo a sottolineare che ho realizzato un vero e proprio scoop. Sono riuscito a realizzare un'intervista con la persona che ha architettato, organizzato, insomma la persona che sta dietro a il caso degli Ulemar, di cui abbiamo sentito poco fa la trattazione nella scheda, perché è la persona proprio che ha gestito tutto questo imbroglio, insomma, che ha portato a 12.000. Cioè tu hai trovato colui che ha architettato la truffa degli Ulemar, questa cosa che hanno fatto sparire le navi, facevano sottoscrivere questi, chiamano, carati, Stefano? I carati, esattamente. E quindi, l'inventore di questa truffa. Colui che ha ideato tutto questo e ancora non è stato trovato, nemmeno dagli inquirenti. Ma noi, come Sole 24 Ore, come giornalisti, stiamo sul pezzo costantemente anche in questo contesto. Qui la nostra professione, il giornalista che dentro di me è riuscito a seguire le tracce di questa vicenda e a intercettare questa persona che ci spiegherà, ora lo sentiremo, come ha architettato questa truffa. Caspita, sentiamo. Buongiorno, lei è il dottor Pipitone Broccoli, se non sbaglio. Chi gliel'ha detto? Ho le mie fonti, sono un giornalista e mi sono deciso ad avvicinarla perché... Come mi ha trovato? Adesso non posso svelarle tutto. Se io le faccio qualche domanda, poi le do io la risposta. Lei non mi dice chi ha detto dove trovarmi, io perché devo rispondersi a lei? Guardi, ci sono 12.000 persone dalle parti di Torre del Greco che sono rimaste truffate dalla vicenda degli Ulemar. Oddio, mi spiace. Non avevo mica idea. Non aveva idea, ma mie fonti mi dicono che lei in qualche modo è coinvolto in questa vicenda. Non sono consulente, non coinvolto proprio niente. Io sono semplicemente un consulente. Ecco, lei ha dato la sua consulenza. Reso recutabile, perito. Ecco, lei e quindi in qualche modo ha visto e ha partecipato a questa... Io non ho partecipato a niente, ho detto cosa fare quei signori lì. Dice niente, ha detto cosa fare e queste persone hanno fatto e ci sono 12.000 persone truffate. Beh, ma loro mi avevano avvertito che c'era detto una persona da truffare. E cosa le avevano spiegato? Cosa le avevano detto allora? Che dovevano far sparire delle navi. Appunto, insomma, lei ha fatto sparire delle navi dai bilanci della De Ulemar. Giusto? Possiamo dire così? Il bilancio non ci trova mica. No. È sparito corto. È sparito proprio del tutto, insomma. Tutto di corso è sparito. Ma mi spiega come ha fatto? Conferimenti. Cioè? Proprio conferimenti. Che cosa vuol dire conferimenti? Lei ha conferito? Se tu metti un bene, lo metti dentro una società, no? Si chiama conferimento. Ok. Cioè nel bilancio della società c'è scritto quel bene è... Non passa da una società... Che prima c'era una società e dopo passa in un'altra società. Prima ho fatto un conferimento dentro una società in Malta. Ok. Malta, no, quello del whisky. No, Malta sì. Quell'isola, insomma. Poi dopo ho fatto un passaggio che ho conferito in un'altra società a Lussemburgo. In Lussemburgo, altro paradiso fiscale. Sì, poi sono andato a Madeira. Madeira in Portogallo, però anche lì ci sono delle condizioni particolari, giusto? È favolosa Madeira. Favolosa per chi? Perché ci paghi mica le tasse di Madeira. E quindi è un altro paradiso fiscale. Mi sembra di capire poi che... Poi ci metti un trust. Un trust? Che cos'è un trust? Un trust è una specie di fiduciaria di diritto inglese, cioè che si può qua spiegare. Cioè un modo per non pagare le tasse o per pagarle poco? No, un modo per non far vedere chi c'è dietro. Ah, quindi una società schermo per nascondere i reali beneficiari di questo. Lo schermo si vede. Quello è una società che lo schermo si vede il televisore, lo schermo. Ok, non si niente. Siamo d'accordo. Non uno schermo, ma un paravento per non mostrare chi sono i reali beneficiari di una truffa, diciamolo, perché sono 12.000 persone e hanno perso un sacco di soldi. Io non lo so, io sono consulente. Glielo dico io, sono 12.000 truffati e lei in qualche modo, adesso ci deve spiegare come, ma è lei che ha organizzato tutta questa cosa? Ma io ho organizzato lo biglietto, cioè io lui diceva c'era delle navi a far sparire, lui facevo conferire la nave dentro la società, lui se l'ho già appena spiegato, insomma voi giornalisti siete un po' strani, sì, non capite mai niente. Adesso siamo voi fate finta, questa è la storia della Gabanelli che ha fatto venire tutti quanti in maniera di grandezza, fare i giornalisti investigativi tutti quanti, adesso sentite la Gabanelli. Lasci stare la Gabanelli e risponda alla mia domanda. Lei, oltre alle navi, ha fatto sparire, diciamo, ha conferito anche del denaro, il denaro di queste 12.000 persone di Torre del Greco. La fresca, dice. La fresca? La fresca. Ah, tra di voi ve la chiamate così, insomma. La fresca, quella bella da toccare. Che ci viene tutto, come posso dire, l'eccitazione anche fisica di toccarla. La vedo un po' eccitato all'idea della fresca, ma insomma... Il cash. Il cash, in inglese, cash. Vabbè, in inglese io parlo così. Lei parli come vuole, però ci dica, ma insomma, ma non ha un minimo di così, non ci ha pensato, non ha detto, ma io ho rovinato delle persone, cioè non ha un minimo di pentimento da consulente, non è che sto lì a fare il prevosto che va a fare le conversioni. Ho capito, però capisce, qui c'è un problema di persone che, insomma, sono passati degli anni. Senta, lei non mi dice chi ha dato il mio numero di telefono, io adesso me ne vado, va bene? No, guardi, il numero di telefono me l'ha dato una delle 12.000 persone, scelga le quali. Me ne vado, arrivederci. Hai visto? Hai sentito che roba? Sì, ho sentito. Posso dire che è un curioso personaggio questo Pepitone questo Broccoli? Questo sicuramente, sicuramente un curioso personaggio. Ti posso però dire... Però nei nostri ambienti si è sempre sospettato che dovesse esistere un grande vecchio legato alle spalle di queste, tutte queste truffe qui. Ma questo... sì, io penso che, guarda, io per come l'ho conosciuto, per il contatto che ho avuto, devo dire che è stata un'esperienza. Un'esperienza professionale ma anche umana. Ma forse anche un po' per noi. Allora, tornando sulle cose serie, non che Pipitone Broccoli non fosse serio, insomma, ci mancherebbe, insomma, magari era un pochino naif, ecco, possiamo diciamo, dire, però, diciamo, però c'è del vero in quello che dice. Allora sentiamo invece colei che ci aiuta a distinguere anche i profili legali. Siamo in linea, abbiamo in linea l'avvocato Marisa Marraffino. Buongiorno avvocato. Buongiorno a voi. Allora, avvocato, ha sentito questa vicenda di De Julemar e, come dire, la difficoltà poi di rintracciare i beni, come ha spiegato appunto il Pipitone Broccoli, sono stati conferiti qua e là e se ne sono perse le tracce. Ma i risparmiatori che si trovano in una vicenda del genere hanno qualche possibilità di rivalersi? Possono fare qualcosa? A chi devono rivolgersi? Allora, questo è un problema purtroppo che diventa spesso comune per i risparmiatori, ormai è diventato frequente. Il problema qui sta nel cercare di accertare le responsabilità. Una possibilità c'è, nel caso di specie ci sono dei reati e quindi i danneggiati, in questo caso i risparmiatori, possono fare due o tre cose in genere: o costituirsi parte civile nel processo penale, che in questo caso credo sia stato fatto, e in questo caso anche nell'ipotesi in cui poi vi sia un fallimento i creditori possono insinuarsi al passivo. Ecco, in questo caso Marisa, di fallimenti ce ne sono due, perché in realtà le procedure sono legate una alla compagnia di navigazione e l'altra alla società di fatto che contiene poi alla fine diciamo i cespiti, i beni più rilevanti. Il fatto appunto che sia stata riconosciuta una società di fatto, che non era scontato, dà una possibilità, una chance in più ai risparmiatori. Questo consente di aggredire ad esempio sia i beni che confluiscono in questa società di fatto che i beni personali di coloro che verranno appunto ritenuti responsabili di questa che è una vera e propria bancarotta fraudolenta. Cioè gli armatori. Quindi la possibilità di aumentare quello che poi sarà il riparto, no? Perché in caso di fallimento poi i creditori devono... Il riparto è la divisione dei beni che sono entrati, no? Cioè che sono andati. Nella procedura. Esatto, quello che si trova alla fine di un fallimento e soprattutto qui in questo caso i creditori dovranno fare affidamento su eventuali beni immobili, a mio parere, cioè se ci sono insomma dei beni ancora, e ce ne sono parecchi, perché i soldi purtroppo spariscono molto velocemente, quindi è difficile che ci sono tanti modi perché i liquidi non lasciano tracce. A mio parere i creditori avranno più possibilità nel caso in cui si rinvengano anche degli immobili. È fondamentale che i creditori partecipino anche a un eventuale all'azione penale, come credo abbiano fatto, quindi costituendosi, ecco, parte civile, perché gli dà un privilegio. Scusa nel se ti interrompo. È ben difficile che un simile traffico di liquidità sia passato nelle casse delle banche locali senza che questi abbiano potuto segnalare o abbiano voluto segnalare con segnalazioni di operazioni sospette, per esempio, alle autorità quello che stava avvenendo. È possibile ipotizzare una rivalsa nei confronti di questi istituti di credito? A mio parere è più difficile ancorare una responsabilità diretta alle banche o addirittura alle singole filiali. Innanzitutto perché in questo caso non si può parlare di bancarotta fraudolenta, quindi i reati potrebbero essere altri, ed è difficile, diventa a mio parere quasi una prova diabolica, dimostrare che i singoli direttori fossero a conoscenza di questa macchinazione anche abbastanza complessa. Quindi la via che io ritengo più fruttuosa per i creditori è quella che è stata azionata, ed insinuarsi al passivo e costituirsi parte civile nei confronti degli armatori. Grazie avvocato, allora ci fermiamo qualche istante per la pubblicità, ma torniamo tra pochissimo con ulteriori risvolti legali della vicenda di Julian. A tra poco. Il serpente corallo. Ma quanto sei bello, serpente corallo, tutto colorato di rosso e di giallo. Ma quanto sei bello, serpente corallo, tutto colorato di rosso e di giallo. Eccoci di nuovo al Serpente Corallo, siamo qui con l'avvocato Marisa Marraffino. Avvocato, stavamo parlando del crack della De Iule, ma di cosa possono fare i risparmiatori, giusto? Giusto, giusto. E mi sembra di capire che ne possono fare ben poco. Fino adesso, Stefano, che cosa hanno fatto i risparmiatori? Cosa hanno ottenuto anche nelle loro azioni di rivalsa? Molto poco in realtà, molto poco, perché diciamo la ripartizione delle risorse ancora trovate nella società delle compagnie di navigazione è stata relativamente bassa, anzi praticamente nulla. Si possono insinuare, cioè in gergo tecnico significa che possono partecipare alla distribuzione degli attivi del fallimento, soprattutto nella compagnia di Julemar, società di fatto. Adesso c'è una nuova causa che è intentata contro la Banca of Valletta, al cui interno erano i trust che contenevano alcuni milioni di euro, da 240 mi sembra di ricordare, e buona sostanza adesso è in corso a Torre Annunziata, che è il fuoco di competenza, un ulteriore processo civile. Ecco, però, avvocato Marraffino, anche se vengono fuori delle responsabilità, per dire, di una banca straniera, per quanto vabbè anche nell'Unione Europea, non mi sembra facilissimo andare a rivalersi nei confronti di una banca di un altro stato. No, non sono per niente azioni semplici, sono lunghe e non sempre portano al risultato sperato. Vero è che però se ci sono dei trust, il trust può essere dichiarato nullo se fa parte di un intento fraudolento complessivo, no? Quindi si può tentare magari di recuperare anche i cespiti, cioè i beni che sono confluiti in questo trust, o dichiarandolo nullo, facendo anche delle azioni revocatorie. Dipende se il gioco vale la candela, quindi potrebbe valer la pena intentare anche una causa di questo tipo. Ecco, mi pare di capire però, Stefano, che fino adesso non è valsa molto la candela, perché le somme recuperate con tutti questi passaggi, quindi insinuarsi al passivo, quindi iscriversi tra i creditori di questo fallimento, eccetera, hanno portato poi come somme a risultati irrisori. 1% delle somme versate. Quindi su 900 e passa milioni si è riusciti a riportare nelle tasche delle persone truffate all'incirca 9-10 milioni, questo è più o meno l'ordine di grandezza. Ripartite in 12.000 teste. E naturalmente poi c'è anche da considerare i tempi, giusto avvocato? Perché mi immagino che come spesso accade in Italia, non solo in Italia, ma specialmente in Italia, la giustizia non è celerrima, non è velocissima. Esatto, ci possono volere anni, molti anni, e poi le percentuali che citate sono quelle medie. Nella maggior parte dei fallimenti i creditori non riescono mai, quasi mai, a portare a casa più di quelle percentuali che voi avete indicato. I beni purtroppo si perdono, spariscono velocemente, molto più velocemente di quanto siano i processi o le eventuali azioni di recupero. Ed è questo il senso dei conferimenti di cui ci parlava anche il nostro Pipitone Broccoli, giusto, beh, sì, Marco? Quello è un po' il senso. Lui dalla sua parte raccontava come costruire questa truffa, insomma, questa architettura. E ho fatto due calcoli, sono 750 euro a testa che sono tornati indietro. Alla caspita, faccia. 750 euro cominciano ad essere una cifra interessante per prendere il caffè, però rispetto a quello che era stato investito, perché sono da 930 milioni che erano stati stimati finora, siamo arrivati a 9-10 milioni, tu dici 750 euro per risparmiatore, ammesso che poi abbiano avuto tutti in parti uguali, perché magari ci sono state azioni legali diverse, giusto Stefano? Non necessariamente una sola azione per tutti quanti. Bene, allora salutiamo l'avvocato Marisa Marraffino, mi sembra di capire che, pur ringraziandola delle precisazioni legali, anche un avvocato consiglia siate prudenti col vostro denaro, è così avvocato? Sì, purtroppo sì, in questi casi la prevenzione continua ad essere l'arma più efficace contro queste truffe. Grazie mille e buona giornata, avvocato Marraffino. Grazie a voi. Lungo la via per Mazara del Vallo ho incontrato un serpente corallo che strisciava sulla battigia trascinandosi una valigia. A un paio di metri, poco distante, seguiva un crotalo tintinnante e più in là, a fare da ronda, un terzo serpente, tipo anaconda. Ma quanto sei bello, serpente corallo, tutto colorato di rosso e di giallo. Ma quanto sei bello, serpente corallo, tutto colorato di rosso e di giallo. E allora, Marco, Stefano, siamo qui a raccontare di questa truffa della De Julemar, una truffa imponente, un serpente corallo, appunto, una fregatura. Un corallone di proporzioni imponenti, ma è il momento, secondo me, a questo punto, di entrare nella dinamica profonda, personale, intima che soggiace a questo tipo di truffe. Ed è il momento quindi della tua rubrica. Della mia rubrica? Sì, la tua rubrica, Il risparmiatore maleducato, perché tu sei l'autore del volume Il risparmiatore maleducato. Lo confesso. Allora, dovresti uscire da Marco Loconte, giornalista, conduttore del Serpente Corallo, rientrare come autore di Il risparmiatore maleducato. Se esci da questo corpo, rientra in questo corpo. È complicato. Sarà che ho fatto colazione un po' di corsa. Per però agevolarti ti ho preparato anche una sigla. Il risparmiatore maleducato. No, bella la sigla, è molto bella. Questa trombettina è un po' inquietante, un po'. No, ma va bene. Allora, io ti voglio adesso pungolare su questo aspetto. Prego. Ma perché? Tu che ti occupi di finanza comportamentale, ma perché qualcuno deve, nel pieno possesso, si suppone, le sue facoltà mentali? Si suppone. Anziché recarsi in una banca normale e sottoscrivere delle cose che può dei vedere... Dei bond subordinati magari, perché... No, vabbè, adesso non andiamo subito nella patologia. No. Però anziché recarsi in uno dei posti tradizionalmente deputati, perché invece fidarsi del carato? Cioè di comprare sto pezzetto di nave per il quale ti danno un pezzetto di carta, non sai bene quanto vale... Ti devi fidare di questi amministratori della società che poi, chissà... Questo è un caso effettivamente di scuola che vale la pena approfondire, perché è un comportamento tipico quello che hanno tenuto le 12.000 persone, famiglie che si sono trovate truffate in questa vicenda. Sono molti i fattori che concorrono insieme. C'è chi non si fida delle banche e poi dà i soldi in mano al primo che passa. Però al di là di questo, cosa è accaduto a Torre del Greco? È accaduto che si è dato credito a questa tradizionale forma di messa a frutto del risparmio. No? Usi e costumi. Eh sì, perché lì è tradizionale questa cosa. No? Allora, qual è il meccanismo che scatta, che spinge la gente a fidarsi di una roba che è del proprio territorio piuttosto che di altro? È quello che gli psicologi che analizzano i comportamenti anche in materia finanziaria degli esseri umani hanno definito l'home bias. Eh? home bias, cioè il fattore quello, casa. Ma, ah, ok, scusa, fattore pensavo, casa. Esatto, fattore casa, sì. Non è l'X Factor, è l'X è la H. No, pensavo a John Baez io. No, che... John Baez è un'altra, è arrivata un po' Stefano, più da lontano. Per favore, eravamo su un aspetto serio della trasmissione. Home bias. Home bias, cioè il fattore di casa. No, non è John Baez. No, quella, poi si suona. Vabbè, insomma. Non usciamo più da questo concetto, per favore. Allora, l'home bias è quel fattore che ti porta a privilegiare le cose di casa tua, no? Per esempio, sì. Tanto per allargare un po' il nostro. Tinello. Anche più in là, anche fino al box, no? Ma per esempio, quando vai al supermercato, tu trovi scritto bello in grande solo carne italiana. No? Perché, certo. Perché la gente dice carne italiana, carne di casa mia, mi fido. No, perché è prossima, è perché vicina. Perché è vicina, ma uno dovrebbe razionalmente chiedersi, scusa, perché in Svizzera, in Francia, in Austria, cosa combinano? A chilometro no? Zero. Diciamo che chilometro zero, se tu vai poi nella fattoria, vedi la mucca, cioè vabbè, magari non vedi proprio la mucca che poi ti mangi, ma insomma, diciamo, hai la tendenza a fidarti delle cose di casa tua. Per esempio, quando AT&T, il colosso delle telecomunicazioni statunitensi, è stato, per ragione di antitrust, smembrato in tante società, ciascuna quotata, ciascuna di un singolo stato degli sì. Stati Uniti d'America, i cittadini di quegli stati hanno investito nei titoli azionari delle società telefoniche del proprio stato, perché quelli del Montana dicevano, beh, io compro titoli della società telefonica del Montana, quelli dell'Alabama, quelli della Florida, stessa identica roba, ti fidi della roba di casa tua, e a volte... Così nacque il gruppo AT&T. Esatto, e Malta l'incoglie il problema ogni tanto, perché sei portato, perché c'è qualcosa dentro la nostra mente che è più forte della razionalità e del calcolo e della pianificazione, e quella cosa, per esempio, è una di quelle cose, l'home bias. Gli studiosi hanno calcolato i trigger mentali, cioè i trigger, cioè gli inneschi, quelle cose che scattano nella nostra mente, soprattutto nel nostro cervello, la parte limbica, la parte... limbica. Oh, ma tutto vi devo dire. Oh, ma ma tu parli difficile, però. Non so, però presente la parte limbica, la parte... No, non ce l'ho presente, va bene. Va bene, adesso te lo spiego. Cioè, non sapevo neanche di averla. Sotto una parte la parte limbica e sopra la parte corticale, adesso che è quella della razionalità. Io sono dispiaciuto di dover interrompere questo momento di grande formazione e anzi vi sono grato. Noi siamo qua apposta a colmare lacune. Noi diamo tantissimo al nostro pubblico, ai nostri lettori, ai nostri ascoltatori, perché abbiamo tanto da dare, siamo generosi. E siamo generosi, allora siamo così generosi che a questo punto lasciamo spazio al traffico, e chi può dirlo se non io? Traffico! Monge, crocchette super premium per cani e gatti con carne fresca e pochi cereali. Vi presenta... Il serpente corallo. Ma quanto sei bello, serpente corallo, tutto colorato di rosso e di giallo. Ma quanto sei bello, serpente corallo, tutto colorato di rosso e di giallo. Ultima parte del Serpente Corallo, la trasmissione di Radio 24 che nei fine settimana vi guiderà a riconoscere i serpenti corallo, setadir, cioè come dire, le fregature, le cose che possono... Azzola. Prego? Azzola. La sola, traduco in la sola. Oppure, come si può dire, ci sono altri, vogliamo dire in altri dialetti, in altre... La parola, il termine di fregatura? Bidun. Il bidun, ad esempio, ecco. Oppure la patacca, poi in Emilia però patacca è la cosa falsa. Insomma, la fregatura... Swindle in inglese. Swindle. Swindle. Va bene, fermiamo un attimo questo giro del mondo e delle regioni, perché... Dobbiamo ricordare che questa trasmissione ha una casella di posta elettronica, come le trasmissioni quelle vere, belle, serie, e allora potete scriverci a serpentecorallo@radio24.it. Ma poi questa trasmissione non parla solo di truffe finanziarie, di coralli finanziari, perché sono anche un po' ma questa voce mi sembra di averla già udita in altre parti della trasmissione. C'è un disturbo nella linea, nel collegamento. Dicevo non parla solo di truffe finanziarie, perché infatti Marco, noi chiaramente quando tocca il nostro denaro, noi siamo molto sensibili e dunque particolarmente attenti in questi casi, ma il corallo si annida ovunque nella nostra vita. Norme, regolamenti, statuti, fisco, regole, di tutto di più. Per questo la nostra osservazione non può che non essere a 360 gradi. Mauro Meazza, ma lei che ha passato 16 anni a norme e tributi. Sì, poi hanno pagato il riscatto. E quindi è stato liberato. Ecco, ci può dire qualcosa per quanto riguarda i coralli che si annidano nelle leggi, nelle norme? Ma posso fare molto di più. Ho persino una rubrica che si intitola Comma Profondo e prego Andrea Roccabella di far partire la sigla. Comma Profondo. Allora, questa volta come prima puntata vi voglio raccontare un comma molto profondo, molto particolare. Mi viene anche la voce profonda. Oddio. Perché vi sto parlando di un comma che ritorna in vita, cioè ritorna ad avere efficacia naturalmente. In questo senso, sì. Sì, dal 1945. Cioè dalla fine della guerra. Zombie. Ma ancora dovevamo essere liberati. Eppure era stato varato un decreto legislativo luogotenenziale. Sì, l'8 marzo del 45. Che aveva stabilito questa cosa. A un mese dalla fine della guerra. E però si vede che gli veniva di varare un decreto legislativo luogotenenziale. Poco importa, il senso è che questo decreto stabiliva che dovevano formarsi in tutti i comuni d'Italia i consigli e i comitati tributari, perché dovevano aiutare, tra l'altro, a combattere l'evasione. No, adesso no. Scusate, mi viene un po' da sorridere. C'è stata la guerra. Vabbè. 5 anni di guerra, cioè, e pensavano già alle tasse. Durante la guerra era quella la loro priorità e oggi invece... Beh, è uguale. Per fortuna almeno non abbiamo la guerra. Meno male. Però quello che vi voglio raccontare non è questo, ma il fatto che 65 anni più tardi, in qualche laboratorio giuridico, magari sotterraneo, alcuni scienziati senza scrupoli, cioè legislatori, cioè, riportano in vita i primi commi di quel decreto. E nel maggio del 2010, varano un decreto legge dentro il quale mettono questa rivitalizzazione. Ritornano in vita i consigli tributari in tutti i comuni d'Italia per combattere l'evasione. E non contenti, nell'estate del 2011, ve la ricordate l'estate 2011, quale lo spread? E come no? Ecco, in quell'estate lì addirittura viene deciso che tutti i comuni devono attivare i consigli e i comitati tributari. Ci hanno fatto una seduta spiritica praticamente, sì, per riportare in vita questi... Entro la fine di quello stesso anno. Cioè non c'era più la guerra fisica, c'era stata la guerra finanziaria quell'anno. Pena se non l'avessero riattivati in tempo la perdita degli incassi dalla lotta all'evasione. E vabbè. Vabbè, insomma, però avevano scritto così, adesso non è colpa mia, non l'ho scritta io questa norma. Allora, però ha un lieto fine questo comma profondo, sì, perché viene l'autunno, la stagione di Halloween. Ecco. Nei municipi cominciano a fiorire i regolamenti su questo zombie di comma che ritorna dal 1945, spuntano qua e là i comitati, ma poi arriva il decreto legge 201, sapete come l'avevano chiamato? Salva Italia! Ma quello era il motivo del Salva Italia, non perché c'era la riforma delle pensioni. E allora il decreto legge 201 prende 4 commi in frassino, li pianta nel cuore del comma zombie e vinsero tutti tassati e contenti. Bancario è un consulente. Lui mi risponde di domenica. Risolve tutti i miei problemi senza neanche far la predica. Il mio bancario è il confidente di quasi tutti i miei segreti. Mi amministra le sostanze senza tante formalità. Lui mi ha mette insieme derivati strutturati, compensati con i fondi correlati, con tanta liquidità. Poi mi aggiunge un ETF con un hedge fatto a fette che mi aggancia con la Cina per puntare un po' più in là. Il mio bancario di finanza, lui sa tutto, è un portento. Io sono sicuro che guadagnare mi farà. Ma chissà chi è questo signore che canta, mi stavo chiedendo. Ho un'idea, Marco. È quello che suona la chitarra? Chi è? Non lo so, ma è quello che suona il basso? Lo so, vabbè, insomma, diciamolo. Lo sveleremo. Marco Loconte suona il basso, Stefano Elli suona la chitarra e Mauro Meazza canta. Allora, sì, ma perché noi cantiamo e suoniamo in queste canzoni? Perché oltre ad essere giornalisti del Sole 24 Ore e anche, ai voi, conduttori radiofonici, siamo anche gli animatori di un gruppo musicale di pop tributario. Esatto. Il cui nome è Chapter 11. Convena giuslavoristica, convenatura giuslavoristica, è importante tributario. Giuslavoristica è importantissimo. Oh, mi raccomando, la pronuncia i Chapter 11, cioè in milanese, diciamolo, che è un po' un'altra città, te li prendono e te li tolgono. Che cosa, Mauro? Soprattutto i soldi. Soprattutto sì. I soldi come serpenti corallo. Ma allora, abbiamo pochissimi minuti prima della fine della nostra prima puntata. La cosa mi emoziona. Vi vorrei ricordare che potete sempre scriverci serpentecorallo@radio24.it. Io però non mi tengo perché ho un'altra rubrica. Non tenetelo. Posso fare l'altra rubrica? Ci tengo moltissimo. Va bene. L'avevo già detto anche a casa che l'avrei fatta. Sei il più alto in grado qui. Sei ossessivo e compulsivo. No, però guardate che adesso ascolterete e capirete. Andrea, puoi mettere per favore la rubrica di C'è imposta per te? C'è imposta per te. Ci tenevo a dirvi questo perché, allora, due motivi. Il primo, questi sono quesiti veri che vengono inviati all'Esperto Risponde, che è una rubrica vera, serissima, certo, che compare tutti i lunedì sul Sole 24 Ore. La colonna ci fanno delle domande e gli esperti rispondono puntualmente e seriamente, solo che alle volte queste domande spalancano un mondo sulle nostre imposte, sulle modalità delle nostre tasse. Ad esempio, parlavamo prima di Halloween, guardate cosa ho trovato, anzi sentite. Un signore chiede: con i miei genitori gestisco un'azienda agricola e coltiviamo zucche, però quando le vendo per essere mangiate l'IVA sta al 4%, ma se io ad Halloween le non ridere perché è vero, Stefano, se io le vendo ad Halloween, quindi non le mangiano ma le svuotano e poi ci fanno, non c'è modo di mantenere la serietà. La domanda è serissima. E poi dicono che siamo un giornale paludato. Ma No, ma guarda che è una domanda arrivata veramente. E dice: se io le vendo ad Halloween, posso applicare lo stesso l'aliquota al 4? Oppure le considero come fossero dei fiori, quindi metto l'IVA al 10%? Voi lo sapete? Capperi, è veramente un quesito. Cioè, stanotte io temo. Dammi subito la risposta, se no stanotte guarda, non dormo. Ti posso dire che né 4 né 10. Se le vendi ad Halloween, non sono fiori, sono decori ornamentali. No. E quindi, caro mio, l'aliquota è ordinaria e piena. No. 22%. No. Questo ha detto l'esperto. No. Questo dice c'è imposta per te. Sì, è così. E allora siamo arrivati con questo alla conclusione della nostra prima puntata. Noi ringraziamo Andrea Roccabella, ringraziamo Valentina Ternullo in redazione e anche un pochino Guido Scotti che ha voluto e creduto in questa avventura. E vi diamo appuntamento alla prossima settimana con un'altra truffa, con altre fregature, con altre cattive, brutte sorprese dei serpenti corallo. Da spiegare, da analizzare. State attenti ai serpenti corallo, adesso anche che andate al mare, state lontano dai serpenti corallo e anche in montagna. Ci sentiamo settimana prossima. Ciao! Ma quando sei bello, serpente corallo!